io vado via e non ti porto con me. C'è un viaggio che ognuno fa solo con sé, perché non è che si va vicino, perché un destino non ha. Un mattone vuole essere casa, un mattino di venire a chiesa. Ed il matto che c'è in me, che si chiede che cos'è, vuole diventare qualche cosa. E sarà una strada senza fine, sotto ad una spada o su una fune, a cercare il mio far west, a trovare il santo graal. Una corsa a brada oltre il confine, una luce prenderò per te là fuori, quando io camminerò le vie dei colori, scalerò le rocce in mezzo al vento, sulle tracce di chi ha perso o vinto, vagherò la mia odissea nell'idea di te mia dea, tagliati le trecce e vai in convento, una voce prenderò per te là fuori, quando io camminerò le vie dei colori. C'era un cavaliere bianco e nero, prigioniero, senza un sogno né un mistero, senza fede né eresia, senza le ali di un destriero, senza le onde di un veliero. Se la sorte gli volesse ciò che ho speso, più forte non sarei per il tuo peso. A valere in un rodeo, a valere nel torneo della morte d'essere il tuo sposo. Una pace prenderò per te là fuori, quando io camminerò le vie dei colori. Cavaliere bianco e nero, prigioniero, senza un posto né un sentiero, senza diavolo né Dio, senza un grido da guerriero, senza un cielo da sparviero, io ti lascio senza perderti. E ti perdo un po', anche se poi lasciarti un po' perdermi. Oh bella ciao, io sono via con un pensiero di te immenso e un nuovo senso di me. C'era un cavaliere giallo che rubò un cavallo alle scogliere d'un cristallo, alle miniere di un metro, sulle ciminiere disegnò un castello di corallo, al ballo tutto il quartiere andò. E festa sia. C'era un cavaliere rosso che salì sul dosso di bufere, sopra il fosso della sede di città, dietro un cielo mosso di ringhiere, dentro il mare grosso di un braciere di immensità. Bella mia, oh bella mia. C'era un cavaliere blu che catturò la gioventù di primavera, che portò chimere e schiavitù, liberò le gru dalle lamiere di un cantiere verso un campo di preghiere laggiù, dove arriverai